è ormai ufficialmente nota, l'esistenza del sistema Echelon o Echelon, cioè di quel sistema di spionaggio raffinatissimo che Stati Uniti e Gran Bretagna, con la collaborazione di Canada, Australia, Nuova Zelanda, che hanno approntato per tenere sotto controllo tutte le comunicazioni effettuate nel pianeta, comprese le comunicazioni che passano nei cavi sottomarini, in fibre ottiche, nei telefonini cellulari, in internet, nei telefonini anche satellitari, ben inteso internet, poi figuriamoci. Fa notizia nei mass media, al contempo, l'esperimento si fa per dire, finanziato dal governo cileno, che consiste nell'aver messo una ragazza, un'attrice, alla mercé degli sguardi popolari in una casa di vetro di Santiago. La furba meschina è in vetrina 24 ore su 24 e fa la sua vita, dalla pipì alla doccia e dalla dormita alle chiacchiere con gli ospiti di giornata, innanzi agli occhi di tutti. Sembra che la fondazione culturale che ha varato l'iniziativa voglia verificare quel comportamento del pubblico su cui nessuno avrebbe avuto peraltro alcun dubbio. All'ora della doccia c'è più gente a guardare, non ci vuole molta scienza per immaginarselo. Alla scienza si è appellato anche quel comandante di battaglione della scuola Interforze per la difesa nucleare, biologica e chimica sita in Rieti. Uno che ha responsabilità in ordine a materie così delicate come la difesa nucleare, biologica e chimica. D'altronde è abbastanza ovvio che abbia non poca dimestichezza con la scienza. Fotografava il pene delle reclute che invitava a masturbarsi. Diceva che si trattava di test psicologici. La mia opinione sulla psicologia è tale che non ne dubito affatto. Il tribunale, che invece ha un'alta opinione della psicologia, non gli ha dato credito e l'ha condannato. Allora il privato è ancora in auge. Controllo sociale, ludibrio del personale, insulto all'intimo e abbattimento delle ultime barriere del sé. Sono merci che trovano ancora compratori. Compratori sempre più potenti per merci sempre più scadenti o addirittura scadute.